Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1868. Il nuovo governo Menabrea e la tassa sul macinato. Come era prevedibile, Luigi Menabrea è di nuovo presidente del Consiglio e, come avevamo previsto, ad agitare la vita politica dell'Italia è, in questi primi mesi del 1868, la questione dei conti dello Stato e delle soluzioni lacrime e sangue proposte dal nuovo esecutivo, che hanno provocato proteste e agitazioni violentissime. Da un lato le cifre, dall'altro le proteste. Vediamo prima i conti e le ragioni del governo. Il nuovo esecutivo Menabrea è nato il 5 gennaio. Il re ha fatto un tentativo con Ponza di San Martino per coinvolgere i piemontesi della corrente permanente, ma poi si è dovuto arrendere al fatto che Menabrea, appena caduto, aveva le carte migliori per succedere a se stesso. Il presidente ha sostituito all'interno Gualtieri con Cadorna, Mari alla giustizia con l'avvocato De Filippo, Provana alla marina con il contrammiraglio Ribotti. Ma ha confermato il resto del governo, soprattutto ha confermato alle finanze Luigi Guglielmo Cambredigni, che ha subito presentato i conti alla Camera. Il disavanzo corrente dello Stato è salito da 168 milioni nel 1866 a 224 nel 1867, mentre per il 1868 il ministro prevede un disavanzo di 240 milioni, per un totale che, come vi avevamo anticipato, è oltre i 700 milioni. Cambredigni ha proposto una cura da cavallo: la tassa sulle concessioni governative, il rimaneggiamento delle tasse di registro e di bollo, la tassa sul macinato, la tassa sulla rendita pubblica, la creazione della regia o monopolio per i tabacchi. Onorevoli colleghi, il piano fa discutere il Parlamento, in particolare su due punti. Il disegno della regia privativa tabacchi è osteggiata da un forte gruppo di deputati che taccia governo e maggioranza di conflitto di interessi, con tanto di accuse di corruzione e conseguenti sfide a duello. Alcuni deputati avrebbero, secondo tali accuse, ricevuto denaro da banchieri italiani e stranieri interessati all'approvazione della legge, che affida il monopolio tabacchi a un gruppo privato, con partecipazioni agli utili da parte dello Stato. Ma il punto più discusso è la legge sul macinato, che colpisce soprattutto i ceti popolari, e infatti la piazza è in agitazione. In questo mese di aprile 1868 lo sciopero generale ha investito Torino e Bologna. Per ora sotto accusa c'è soprattutto la pesante imposta sulla ricchezza mobiliare, che colpisce i salari. Ma c'è chi prevede disordini più gravi se passasse l'imposizione sul macinato. A Bologna la maggioranza dei negozi è rimasta chiusa, mentre operai, tipografi, muratori sono scesi in piazza. Nella notte sono stati arrestati alcuni leader della protesta. Lo sciopero è continuato il giorno successivo. Le strade sono state allora presidiate da cavallerie e bersaglieri. Ci sono stati nuovi arresti e il periodico democratico L'Indipendente è stato sequestrato, mentre la società operaia, la società dei tipografi e l'Unione Democratica sono state sciolte. Il clima è agitato, come rivela questa assemblea di operai a Torino a cui abbiamo partecipato. Sì, uno sciopero, poche balle. Amici, facciamo lo sciopero! E bastardo chi si tira indietro! Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.